GR Europa. Buona giornata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento con GR Europa, un approccio comune contro il crimine organizzato che prenda spunto dall'antimafia italiana. E questo quanto chiede il rapporto della Commissione Speciale per la lotta al crimine organizzato del Parlamento di Strasburgo, firmato dall'eurodeputato PDL Salvatore Iacolino. Verrà discusso lunedì prossimo e votato dalla plenaria il giorno successivo. Anche politiche fiscali più condivise aiuterebbero nella lotta alle mafie, sostiene Iacolino ai nostri microfoni. Io ritengo che sia fondamentale una politica fiscale comune ed omogenea da parte degli Stati membri per ridurre il cosiddetto cuneo fiscale, ma anche per evitare, così come vi è in questo momento, paradisi fiscali anche all'interno del territorio di taluni Stati membri. È fondamentale che in un mercato unico europeo vi possa essere finalmente una disciplina fiscale comune. Per i cittadini europei l'Unione intanto si sta muovendo nella direzione sbagliata di fronte alla crisi, ma non è un motivo valido per uscirne. È il quadro che emerge da un rapporto pubblicato da Gallup Europe. I più pessimisti sono i francesi con il 62%, ma anche il 45% dei tedeschi ormai pensa che le politiche europee per la crisi non stiano andando nella giusta direzione. Abbiamo sentito l'opinione dell'onorevole Giovanni Lavia, capo della delegazione italiana del PDL a Bruxelles e in commissione bilancio. Di austerità si può morire e stiamo rischiando di morire. È solo una parte dell'intervento al quale va accoppiato invece un intervento diverso, finalizzato alla crescita economica, alla ripresa, all'occupazione. Dobbiamo intervenire sul piano europeo con un piano straordinario per l'occupazione, ma non possiamo pensare che i 6 miliardi che hanno messo a disposizione i capi di Stato e di Governo siano sufficienti. Non possiamo pensare che con 6 miliardi in 7 anni per 27 paesi si possa fare un intervento significativo, ci vuole qualcosa di diverso. Le vittime di violenza potranno presto contare su una protezione valida in tutta l'Unione Europea, una svolta arrivata dai ministri della giustizia degli Stati membri, tra questi quello italiano Anna Maria Cancellieri. Riuniti oggi in Consiglio a Lussemburgo, il nuovo regolamento consentirà a coloro che hanno subito atti di violenza di far valere ovunque si trovino in ambito comunitario il provvedimento restrittivo ottenuto nel paese d'origine. In pratica significa che la protezione seguirà la vittima nei suoi spostamenti. In Europa circa una donna su 5 ha subito violenza fisica almeno una volta. E questa era l'ultima notizia del nostro GR Europa, che è stato curato oggi da Anna Migliorati, in regia Paolo Corleoni, Valentina Furlanetto al microfono. GR Europa torna lunedì. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.